Trionfo è certo, due schiavi, una rana. piazza sconosciuta, al mercato dei neri, in Africa comprai cubini con bussi. Sono là, e in farina d'acciaio.